sorpresa. Allora, sì, già. Ehi, ehi, no, ma va benissimo. Io avevo appena scelto quella di antenna, anche se un po' a voce, sì. Ma cosa deve essere attaccato la via? Esatto, la base magnetica. Avevo un supportino, perché non avevo la base qua sua, un supporto che usavo in una rete antenna da 1.7, non è stato tutto. Si è piantato così barbaramente su una base magnetica, una base magnetica che ho comprato la figlia. Sta andando bene. Mi hanno tutto la persona ad Alghero, che ha pedato, Alghero, Ferro Torres, va bene. E poi andando in questa mattina. Fino a che non so a sistemare qualcosa. Quello lì è buono, no? La Cambio 23 è un bello apparecchio. Ce lo usi con microfoni amplificati, meno lo dai c'è apparecchio, ma ce l'ho lui dalla me. Lo sai di cercare è il mio perché lo sto usando io, ma tu lo sai, anche quello della prego le cose, io no, perché io tempo addietro avevo sempre tutti i toccai, ho avuto io, a 5024, poi io il 5024 o l'ho prestato o non so che fine ha fatto questi ultimi 40 anni, non lo sono più da nessuna parte. E allora sto usando la 723. Ma lo ricordo che me l'aveva detto quella persona, me l'aveva detto che ce l'aveva. E so perché me lo metto in funzione. Neanche un altro di apparecchio per la Cambio 23, neanche un altro. Perché gli avevo regalato un microfono io, che non c'era un microfono, gli avevo regalato a me. Poi non lo so. Allora, io l'altro giorno ho chiamato un tipo che sta vendendo per casa così un Compact, un 25 di. Sto pensando che giri la cosa se non so quello. E così si accorge che la macchina per andare a mano e tornare. Perché è un piccolo vanno che andrà. Va bene per il tuo grande questo sta a giù. Lo so, ma il Compact è un apparecchio di vecchia data. Magari va anche bene, dai. Andrà bene, Massimiliano riprende. Beh, positivo, va. Se non vuoi te lo vendo io in bella radio per casa. Ci ho provato, di suo, senza rinnovare, senza saluto. No, ma guarda, mi ho portato, c'è un po' dietro, non riesco, non c'è, e vedo che ho fatto la verità, c'è un produttore, e forse mi dà anche per il produttore, e poi anche qui, parlando di quella qualità. E quelle cose lì non andavano mai là. Però le cose che volevo regolare per casa, tutto quello che avevo prima, un Cobra, così come le persone. Positivo è questo, l'ho preso un vintage, è un Cobra 200 GTL DX. Ma quello sì. Ma quei tempi si usavano una cosa di questo, dovevamo tornare qua adesso, magari, per l'altro mese. Sto cercando di portare via un apparecchio a me, è un vecchio amico della vita, è un apparecchio a potenza, a questo frequenza, per cui diciamo che c'è un paio di cose in ballo. Va bene, chi è che ha bussato? Avanti. No, io non sono, io mi sto preparando per portare i cani, sono stato salutati, ma sì, allora li ho già salutati, sono tutti a Bruno, buona correttina. Grazie, ciao Corriere, buona passeggiata, fa veloce perché giù c'è un bel freddo. Andare avanti, bombolo. K, ciao Cra, ci risentiamo alle prossime, va? Oh, quando è? È freddo io su, avanti già. Ciao Claudio, e anche io adesso chiudo che sta per arrivarmi la pizza a casa, vi saluto tutti cordialmente. Ciao, ciao già, ci sentiamo. Ok, avanti Bruno. casa. Avanti Bombolo, ciao, ciao a te Bruno, buona serata. Avanti Anto. Ehi Kappa, ciao Bruno, ce la sentiamo. Ascolta Anto, ma adesso tu agganciatosi. Secondo te? Secondo me sì. Quant'è? Devi dire se sei minimo o massimo. No, sono medio. Guarda. Sì. Ok, fai da 9 a quasi 9:10. Io fammi un passaggio a Moretta a vedere se aumenta. Buono a vedere adesso. Da 9 a 9:10. Ok, visto che aumenta tu. Capo, lo torniamo così. Ah, basta così. No, sto provando perché mi sono accorto che non c'aveva tensione sta cosa. Cioè, ma roba da macchi. Ma a quanto era tu? A 11, ma si può uscire a 11 secondo te? Adesso l'ho messo qua al massimo perché segnava 12, quasi 13 ampere. Volevo aumentare ancora, volevo aumentare ancora. 13 ampere no. E voce, quanto sono, quanto sono, a 13,8, quanto va regato? Al massimo. E beh, al massimo non sai più di 13. No, no. Mi barri qua nella gorgia. Oh, siamo ancora qua. Prova ancora adesso, cosa hai combinato? Ho messo il test e mi ha dato così. Sera onde zera, ma chi sei che ha già teso il 550 era frociu questo baracchino, ma andava nuda. Cioè, mi accorgevo che l'altro baracchino, mi accorgevo che era molto molto, non andava nuda, non andava. E c'era poca tensione, c'era. Ti voglio ammossare gatto, perché altri posti non ti posso morsicare che sei troppo troppenna, roba da matti, roba da matti. Attacca e attacca che ti do il segnale giusto adesso col Kenwood. Allora, esce a vedere. 1 e 3, prova radio. Aggancia a vedere. 1 e 3, prova radio, prova radio, prova radio. Forza via. Guarda, andiamo anche avanti, ti voglio ammossare da Enzo. Vedi che funziona l'amplificatore. Fai da 9:10, liscio, agganciato, 9:25 adesso, prima di 9:20. Hai visto che funziona l'amplificatore? Oh, che hanno pensato di bello, grazie. Avanti, Massimiliano. La verità, non c'avevo strumento, ma me l'ho comprato stasera. Alle più di 13. Non puoi farlo, Ma su che scala l'hai messo il testo, tanto fammi capire, l'ha messo un, aspettate, il cuore lo devo mettere. Allora, lo metto il tester in scala BCV, in scala 200 l'hai messo, sì. Ehi! E cosa ti segna? Sono 13 col trimmer tutta maletta. 12,88 qualcosa, ma già bastano. La fine. Era onde zì. Era moscio moscio questa cosa, adesso ho abbassato un pochino, perché insomma, era moscio moscio. Sì, ma non è giusto ancora tu, e non è giusto ancora, perché gli ampere non vanno a 13, vanno a 13,8, anzi, se lo metto a 14 non succede niente, però deve andare ancora un po', il baricano che non sale. Vabbè, io la giubboccia al massimo, non hai sbagliato. Ha detto, mi sembra, se non vado errando, hai detto che il tetto segna 13,88, quindi quasi 14, sì. No, a 13 è blu. No, ogni 10,88, cos'è che 88? 13,88, se ti sta segnando 13,88, sei quasi a 14 volts. Sì. Ma tu hai detto 13, Antù. Il 1,88 non lo metto. Sei già aggiunto 88. Allora lasciamo così, lasciamo così che va bene, 13,9 quasi, sì, va bene, buono, lasciamo così che va perfetto. Imbarrato Rovecchia, nega, ma chi sai che non andava? Cioè, attendono con la gente, ma cosa fai c'è la radio, bro, strano, strano, e poi dopo non ce l'avevo, ha già comparato stasera, ha già misurato, ed era quello lì, era, capo, non c'è va per. Aspetta, scusa un attimo qua. Ascolta, ma questo passaggio che hai fatto per guardare se hai trovato il segnale Claudio, cosa hai fatto? Dalla setta marcia al massimo? infatti, va sganciato e agganciato al massimo. Sì, sì. Beh, adesso l'ho abbassato. No, aspetta, rifallo con me, io sono un po' più lontano. Tu lo metti in sesta marcia, ok? Sganci e mi fai un passaggio, e poi agganci e mi fai un altro passaggio, vai, che ti guardo il segnale. Eccoci qua. 1, 2, 3, prova. Aggancia. 1, 2, 3, prova, radio, prova. Allora, sganciato mi fai da 5 a 7, ok? Quando aggancio fai da 9 a 9,10. Buono. Sì, sì, è buonissimo. Qua fa 9,10 liscio, normale, con la potenza della radio, e quando aggancio adesso fa 9,25, va bene, non tu adesso. Adesso va bene. Se era sottoalimentato non può lavorare un amplificatore come quello, capito? So perfettamente cosa stai usando, quindi adesso va bene, a 13,9, 13,8 va bene, ma se lo metti a 11 volte non ce la fa. Manco alimentare i finali, no, su. Va bene, Antonio, adesso c'è il segnale tuo, adesso sei a posto. 9,25 arrivi qua agganciato. La radio è buona se non aumenti l'ingresso, capito? Se aumenti l'ingresso va in saturazione. Quindi l'ingresso su quell'amplificatore lascialo così. È già un grido via! Guarda, adesso c'ho cosa, c'ho, come si dice? Ce l'ho a 50, abbassa e abbassa, tanto c'è meno occhi, quindi no. Va bene così. Ha migliorato anche molto la radio, non la mettere al massimo in 6, tanto un consiglio che te lo amico. Quando sei così in questo locale lo tieni spento, quando lo vuoi agganciare anche in questo locale mettilo a 3, alla terza, alla quarta potenza, anche alla quinta lo puoi usare, la radio è molto più bella, questa è quello che dice sempre Massimiliano, e vedrai che nessuno ti può dire niente, perché se tu aumenti, lo metti in setta, mi dai troppo ingresso, io non ti capisco, capito? Non ti capisco, esci tutto saturo. No, volevo che facevi una prova, Anto. Anto. Ehi, ecco qua. Oh, avane sul demo che no, non è necessario, dovrà fare tutta questa potenza. Ecco qua. Anto. Ascolta, con la radio che stai usando, con i watt tutti chiusi quanto è? È intorno ai 5 watt, 3 5 watt modulati, una cosa del genere dove c'è acceso. Ascolta, ma tu quando agganci sei tutto chiuso con i watt? Beh, se non vuoi che esca una radio brutta, sì. Ah, ok, a posto. No, pensavo che scendeva ancora. 5 watt, pensavo che con i watt tutti chiusi arrivava almeno a 2 watt con la radio, una cosa del genere. Qua si tiene così, così all'incirca l'avevo misurato 10 watt, così va bene, non ha problemi. Oh, ma ci vedi, dai, vado a portare il camera. Ok, che mi sono già preparato, se ci siete sentiamo dopo 10 minuti e sto salendo. Ok, va, qua. Se ci siamo già siamo qua, va. Ok. Va bene, porta il carro, guarda tu. No, ma non c'è problema qua, non ti preoccupare. Vai, vai. Qua, così, con 10 watt, siamo che una meraviglia siamo, no, non c'è bisogno. Tanto ci sentiamo abbastanza, adesso era una prova che volevo fare. Minchia, ma si intendi che lo faccio andare, alimentatori, Vabbè, certo che lo fa andare, insomma. No, volevo fare una prova con i watt tutti chiusi, usando a lui in quinta marcia, volevo ascoltare la radio. Sì, te l'ho già fatta la prova. Aspetta, la rifaccio. Ecco, ora i watt tutti chiusi, com'è? Ok, così sei in quinta con i watt tutti chiusi, giusto? Cappa, aspetta, no, non me ne ammento. Ecco. Imbarrado, così in quinta, imbarrado di Veggiani. Ora! Ascolta tu, altra cosa, il mitigando la radio, come ce l'hai? La radio è al massimo, il microfono non è al massimo. Ecco, ascolta, invece non lo mettere al massimo il la radio, chiudilo un pelino. Ed un cazzo, in ovvio. Aspetta, c'ho un mezzo. Allora, così. Prova a vedere così. E cos'hai fatto però? Un pelino l'hai chiuso. Il coso, il microfono. Oh, la radio, il micchigendo la radio, il microfono, lasciatelo com'era. Il micchigendo la radio, chiudilo un pelo. Aspetta un attimo. Non me lo ricordo chi. faccio. Ah, non si può. Come vuol dire non si può? Aspetta. Ora. Ora. Ora. Guarda che Nicky Gendola di quella radio è il secondo tonnello, quello piccolino lì. Aspetta, accendo la Ruzzi. Aspetta, prendo il telefono, che c'ho bugico. Perché non si può abbracciare la radio, guarda cosa si intende. L'ho trovato, dai. Se c'ho bugico, non c'ho gli occhiali. Gli occhiali li tolgo la sera. Ok, allora chiudi un pochino, lascia perdere il microfono, la radio sto parlando. Chiudi un po' il Nicky Gendola. Va a vedere. Aspetta, tu adesso hai abbassato il vecchino, l'hai chiuso troppo e l'hai riaperta tu nuovo tutta. Fammi un pelino, ti metto un pelino, tu lo metti al massimo e poi lo chiudi un pelino. Abbi un po' di pazienza. Guarda a vedere, adesso l'ho fatto. Ok, abbassa leggermente il microfono adesso, un po', la radio lasciala qui. Abbassa un po' il microfono. Ecco qua, com'è? Ecco, adesso è bella la radio, vedi? Prima era troppo un po' cupa, ti sentivo lì. Cappa, adesso va bene? Eh sì, adesso sembri tu in verticale. Vedi, non saturano niente, esce bene così la radio. Qui in panaccia, con questa regolazione, si alla grande. Cappa, adesso proviamo qualcosa. Aspetta, proviamo normale, invece vissuto. Spegni un attimino quello lì. Ecco qua, così è normale, aspetta, troppo questo invece. Vuoi vedere com'è? Così è buona, così è buona, però se i segnali bassi sono troppo bassi, quello lì mi sembra che abbia anche il amplificatore di antenna quelli di Arezzo. Non ce l'ha. Non ce l'ha. No, perché ti spiego. E cosa fa il pulsante che c'ha in più? C'è per mettere il telecomando. Cos'è? C'è un affare che c'è per mettere il telecomando. Allora, quello c'ha l'accensione e spegnimento, giusto? Poi c'ha AM e USB, l'altro pulsante rosso e il amplificatore di antenna. E poi c'ha l'affarino modo che tu inserisci per il telecomando, così è. Allora, l'originale in teoria è così, ma non originale non è così. Ah, ok, vabbè. C'ha un affare, c'ha tipo spinotto rimane. E se lui va per mettere il telecomando, non si sa mai che vuol dire ammattuglia ce l'ha venduto. Non ho capito, va bene, comunque sta andando bene. Cappa, con i batti della radio quanto ti arrivo? 6,5 a picche quasi di 8, quasi. La voglia va bene, cosa, voi buoni? Comunque 9,10, dove sei tu è un bemme, non è buccia di giocare. Sì, un bel sì, oltretutto c'è una penna bassa, se aumenti un palo di 2 metri li guai. Non la voglio salire, avevo paura che me ne caccia in campo. Vabbè, già si può fare, quando farà il tempo buono ci penso, un pochettino di più. Però così ho visto che va bene. Sì, sì che va bene, la voglia, la grande. Cappa, e dico che no, cioè, per come sono messo non ho problemi, e dico anche che sono contento di questo, soprattutto di questa versione qua, di questa antenna, sono felice, vabbè. Perché pompa, va bene, non mi posso lamentare qua di niente, sento tutti e non ho problemi. Certo, se ci avessi un po' più di altezza sarei stato ancora più contento, però per il momento va bene così. È alta 2 metri, cioè io mi devo salire su mi per metterla a posto l'antenna, dai noghi non verrà a posto. Va bene, almeno c'è qualcosina, anche fra un po' di fa propagazione, che ti aiuti anche con quella da farina lì, dai. Allora, per il momento non mi posso lamentare, la verità ti dico, sono contento. Va per Roggero. Nel mio piccolo non mi posso più lamentare. Sono contento nel mio piccolo. Sono veramente contento. Quella è una radio ottima, poi. Una bella radio quella. molto bene. Questa è la prima versione, mi. Io lo so così. E poi è uscita l'altra, come quella che avevamo noi, te lo ricordi? Quarta. Quella lì mi è rimasta nel cuore, quella lì era una bestia, spingeva un bel. Me lo ricordo, aspetta un secondo, me lo parlare tu, aspettate. Vai, vai. Ma tu ci sei? Ci sono, dimmi. Va per Roggio, va. Vabbè, ma già cenato hai? Sì, ci abbiamo mangiato i gigioni che sono rimasti da pranzo. Siamo scaldati e abbiamo mangiato, mica ce lo butto via. Ma vabbè, anche lui quando va a fare la pranzo, la scaldiamo la cosa. Aspetta che ci metto il cane giù, aspetta. Sì, ah. Ora bisogna andare da Daniela, voleva uscire, e se non sono sceso giù a studiare. E caro cane? No, Lugano è altro dietro, Lugano è un che è rimasto. Ah, così è. A me tua figlia, cavolo, non l'ho più vista. Quanti anni ha adesso? Compie 12 anni, tu. 12 anni a maggio fa. Ma pensai che ti ho visto una cosa così minoretta. Sorria. 12 anni ci sono passati. Tu mi hai fatto, tu mi hai lembrato molto la minoretta. Già me lo ricordo già. Ebbene, sempre Morella io, ha cambiato un po', più calma. Beh, diciamo che 50-50, va. È una fuori gabbo. E io vado tutto a Rivoli, Anto. Guizzo Smitter, sei 9-10 sei in Guizzo Smitter. Però, dall'altro arrivi di più. Va bene, va. La voglia. Mi tocchi appena il rosso. Ma io, sto raccolto, ci metti lì? No, questo rimane così. Gatta, va bene. Ma che ci abbiamo bravo facendo queste cose? Tu la sapere, qua non è arrivato più nessuno. Ma butto non nessuno, me. Poi se ne fa qualcosa già ce ne sono bravi. Io ho visto quelli fatti dalla Delta One, mamma mia, tanto buon pane. Ma c'è uno schifo con la radio. Lascia perdere tu. Chi te l'ha fatta è bene? C'è un po' di gente che l'ha fatto, c'è molta gente. Dipende dal tuo budget. Ma in Sardegna Roberto Rapido non esiste più. Sì, lo fa ancora, però siccome sta cambiando casa e tutto il laboratorio è rimasto nell'altra casa. Vabbè, ho venuto un po' su via tu. Vabbè, ce ne parliamo in diversa maniera. Comunque si sta portando tutta l'attrezzatura in questa casa dove sta andando, capito? Perché là non può più andarci. E quindi appena si mette a posto, avete che già riprende, va. Già le faceva bene, ma ne ho sentito certe che... Cazzo, proprio è una cosa che non si crede. Poi vabbè, diciamo che queste che hanno fatto a noi sono belle, va? Sì. No, non lo metto in dubbio. Ma tu lavora bene, perché con la spesa un pochettino minore c'è altra gente di fuori che le fa meglio di lutero. Lo so già. Allora abbiamo sentito quelle di Boomerang, cazzo, è una cosa che non si crede. C'è Sabatino che è molto più bello di Boomerang. Boomerang è la bue e l'impianto di Angius in mezzo. Cosa c'è? L'impianto di Angius e Boomerang e l'asfalto dentro, capito? Davvero? È perché per queste cose? Sì, diciamo che fanno copiare le modifiche, queste cose qua, va. Che bello, sono specie di cosa niente, boh. Ah, di buone chissà cosa vanno a copiare. E terroneggia la radio da voi, se c'è da fare un qualcosa, cosa fai? Devi buttarla solo da Edo. Ma io penso che vanno a male anche a lui poi a smontarne tutto. Ma spero che mi è arrivato un messaggio che lo guardo. Ehi. Ma tu, a lavoro io faccio la tedesco a mettere il cliente a casa. Ma tu. Sì, avanti. Sono sempre io. Oggi vi trovo a metterti dentro casa. Ho capito, aspetta che... Ecco qua, cos'è detto qua? No, sono Claudio. Ti ho detto, se vuoi, quanto è tedesco a metterti in casa. Va, cosa va a fare il tedesco? Allora. Oh, non ne posso mettere io, l'anima è che lo butta gli osso, io... Se ci sarete di mandare, torno la sera. Un bandolino, che buono. Scappa. E sarà che non ne puoi rubare il padrone di casa e soldi. No, cioè, non ti rubo nemmeno rugare da buono. Non va per muro qui, no. Ma io sono... Io buttavo giù un battetto, non tu. Anche questa radio sta andando bene adesso. Va, alimentatore, anda. Oh, yeah. Beh, certo, adesso sì, Allora non si bozza. Prima si bussava questa radio. Scappa. Ho acceso questa perché posso stare più comodo parlando. Scappa, Brioscia. Devi cercare di organizzarti bene. Adesso un mobilettino lì, carino, fatto bene. Non vedate un mobile. Ah, vedi? Certo che ce l'ho. Me l'ho portato dall'altra casa, me ne pure da no, chi tu viene con me, no, oh, no, io mi immagino di piazza la radio, no, che... Ma è lì, non c'è, guarda, lo sposto a voi. Sì, c'è qualcuno da parte di dietro, me lo sposto, c'è tutto l'impianto fatto. Meno male, adesso è più bello perché mi sono tagliato. Allora adesso sei pronto all'uso tu. Sei tu pronto all'uso. Cosa hai detto? Ha detto che adesso sei pronto all'uso. Ma io sono pronto all'uso. E la mucca di fa, vabbè. Ah, così è. Sono obbligato oggi, siamo vicini, sono comparato. Un gruppo di letto. Un gordo. Bello, non abbiamo pagato neanche tanto. Come si chiama? Piumino, questa cosa. Non ho capito, tu cosa hai detto? Detto che ci abbiamo comprato il piumino, il copriletto. Ah, perché siete a Piumino ieri? Non ce l'avevo mai da vecchio, ma via via così fa, ma chi so. Ma che poi la conferava? Ah, cinciullina ti ho comparato, è bello imbottito. Oh, ma voi, non buttarlo di fava, mamma. Ah, guarda, non ci sbrudiamo. Questa voglia va bene, che piano di giù, così si male. Ma cosa, i nocchi? Ah, di affianco a te. E non mi hanno allungato le mani, via tu. Ma ti ho compreso, sei detto? A non allungare le mani, perché adesso ti sei sbagliato. Già una riga ti allungate. Per me non paga il baracchino, no? Non mi piace. Gliel'ho detto. Poi c'è un po' una trattazione lì, tu. Ma non c'è il baracchino qua, la trattazione. Anche per la bongola. È piccola a casa. Quante camere hai? Tre, altro, quattro, quante ne hai? Allora, la cameretta lo so falso. E già c'è per la cucina. E il bagno di fuori, fuori dal balcone. Ho capito. Il bagno dove ce l'hai? Fuori dalla finestra. No, il bagno è lì, è giù, c'è una canta, una stanza dove c'è il bagno. E basta. Capito. Allora, è fatta così, io so per la cucina. Io anche per la camera da letto, che sarebbe un soffalco, sarebbe, cioè, non proprio un soffalco, tutto in parcheggio, queste cose. Io anche per un cernaglio, per la tenda, io anche per la stazione. Quindi c'hai lo scalo, diciamo, per salire sopra qualcosa, va? Sì, sì, sì. Una camera da letto, va. Va bene, l'importante è che c'hai la cucina un po' grandetta, no, ci stai bene, va? Ah, va bene, in due va bene, tu. Sì, già va bene. Ma poi cambio capite, già avremo un discoteca mono locale. Ah, uscire, fai Superman, ti butti la piano di sopra. Ah, no, non l'hai visto che metto musica. L'ho visto, va bene. Vieni metri a voti te sa roba? La smonto. Qua è la roba. La smonto. Ah, te la smonti e te la metti di nuovo, dov'è? È grande la cavallaretta allora, va? Insomma. Così così, Vabbè, vai l'armadio, insomma, vabbè, sì. Io c'ho l'armadio. C'ho un armadio, c'ho una specie di mensolina sopra. Poi c'ho questo mobile, un comodino in occhi. Poi pure la cara. Vabbè, vabbè. La Puglia. Sì, a Santa Rangia, di in occhi. Tu, ma fa... Fa non va, fa una bombetta. Ma, allora cosa ti dico? Che se non va per un migliore andare per chi sa. Però sì, se la sappi più male è meglio, tutto un piano, tanto che se rimani lì verso Sasso del Vecchio, casettine più belline magari ce ne sono, e magari con 50 euro in più trovo una casetta più tranquilla, cioè nel senso la cucina, la camera da letto nello stesso piano, cioè magari un'altra cameretta che ti può servire per qualsiasi cosa e tutto cosa, va. E si conferma. Vabbè, per adesso ci accontentiamo di questo. Cosa vuoi fare? Non è che... Per adesso non è facile trovare una casa mia, dati da buro. Abbiamo fatto salti mortali. Avanti, grazie. Cappa di rogno. Vabbè, va bene, allora mi ci vediamo. Certo, sopra il cacca così è un casino, ma se c'hai una cameretta, una camera da letto, una cameretta piccolina con un salottino, eccetera, tutta in un piano, già è meglio, va. Già è meglio. Vabbè, comunque, per dove sei, già vabbè, va. È che sono dei cani morti, perché non si può pagare quella cifra così, capito? Io ce ne ho una qua, al quarto piano, e c'è l'appartamento come il mio, restante a letto, salone grande, doppio servizio addirittura, perché io ho fatto l'armadio a muro dove dovevo fare l'antibagno, come la fottinuba. È grandissima, no? Come questa, 95 metri quadri e paga 380 euro al mese. C'è la regalata. Regalata sì, anche che paghiamo noi su cifra. È regalata, è il cucano, hai capito? Ho fatto il contratto, tutto regolare. Addirittura era 350, pagava fino a qualche anno fa. E poi gli ho aumentato a 380, siamo malissimo. Ma è nuova quella casa, anche perché lì è sola, è lei col suo cagnolino, la persona grande, è un ex maestro d'asilo, capito? Però si trova, ma qui c'è proprio a sfruttamento che a 350 euro, ma cara io. Avanti Massimiliano. Sì, infatti io ve lo stavo dicendo, se lui anche per la stessa cifra o con una cinquantina di euro in più trova una casettina un po' più grandetta, ma è per loro, hai capito, stanno meglio. Cioè se invito un amico la cosa mi rubo andare buboni a lui. Cioè devi andare in bagno la notte che ti scendere le scale, devi risalire. E invece magari con tutto un piano, un'altra cameretta, diciamo, in più, per imbarrate, le cose andrà meglio, capito? Vabbè, comunque, per due momentaneamente già va bene, così andiamo avanti. Eppure è successo quello che stai dicendo tu. Un letto in più ce l'abbiamo, che è giù. Però l'ha già detto, guarda, se ti accontenti del materasso gonfiabile va troppo bene, gli abbiamo detto. Ho detto, la tua compagna la fai dormire sul letto e tu dormi nel letto gonfiabile. Tu cosa hai fatto? Tu dormi nel letto gonfiabile e tua moglie nel letto normale. No, gli ospiti. Vabbè, a tuo letto, ma non si vede che si vende giù. Cioè, nel senso, anche nello stesso piano, tu magari una camera a letto più grande, ti fa comodo anche a te, non per altro, capito? Vabbè, ma comunque, per il momento già andava così, tu. Non si fa il moglioso, va che lì. Si faccia un attacco di marioso. Porca. Già hai facciato la gozzola, come si chiama, la rete. per motivi a San Donato. No, allora adesso ho sistemato io, ci ho messo tre piedi, ci ho messo per non avere più il pericolo, ho già fatto un travaglio, poi ci ho rimesso le doghe. Ho fatto un bel lavoro, spero che non si barrea più. Come un tre allora, ti spiego, questo c'ha i quattro piedi, c'ha sette piedi questo letto. Allora c'ha i due piedi che vanno quelli normali, giusto? E poi questo era nato col piede centrale. Si commenti da Giubuccio e se c'ha caldo proprio rubetto. Non regia, cioè quei piedi libri come l'ho comprato e si è staccato proprio il pezzo perché non ha resto. Allora io ne ho messo tre in fila, ne ho messo, a voi non si barra più. No, tanto io ho letto, avevo sette piedi e la giubilisco, la vedo in baio. Ehi, allora questo è nato col quinto piede. Piede che è al centro e ne ha giubato tre, ha giubato i buchi con un trapano e ne ho messo tre per essere più solido possibile, capito? Io ho capito, vabbè, allora sì, sei tranquillo, allora sei qua, non tanto giangante, come ti ha passato il leone, tranquillo, lo pesci, ti fa tre piedi, come te l'hai, no? Se ci mi faccia nero un velato puntellato a terra. Però ho fatto un bel lavoro, ha detto i quattro, ma no, ah, perché quelli stupidi, macchi di catena, quando siamo arrivati qua, come si sono dimenticati di mettere il quinto piede, perché questo nasce così. Cazzo, quando siamo arrivati di nuovo, che ci siamo guccati, siamo parati. E poi io l'ho riparato, gli ho messo il primo piede, e si è truncato. Cioè si è truncato perché è più fine dell'altro di questi che ci sono qua. Allora ho pensato bene, si è proprio staccato dove c'è la saldatura. Allora ho pensato bene, avanti il bongo 3, a Romanco non si barra più. Vabbè, lo stavi provando subito, ora sei arrivato. No, che non cognati lo proviamo. Non eri agganciato, sì. Quanto ero lineare? All'incirca. Va bene. Ma ti fossi il brufo di Gigione, capito? Vai piano, Antonio. Bella, bravo. Ma che sono l'agneghizzo allora? Ma non è il fiore. Oh, così, siamo abituati così. Vabbè, a bocca della televisione non ti agganci, ne ha tanto, non ti posso leggere. Allora, massaggino, uscì poi, salisci una le scale, ma come ti vai a fare andare in bagno? Era buio, ora non ti attendi. No, ti spiego una cosa, ti spiego, aspetta. In oggi è un po' particolare come caso, allora, io c'ho un interruttore qua. Un interruttore che accende sempre qua e accende anche la luce di qua. Allora io come scendo giù, c'ero proprio vicino al letto, schiaccio e scendo, capito come funziona? E poi questa casa è tutta strana, c'ho una presa dietro il letto lì, poi ne ho, c'ho altre due in parallelo qua, ma c'è un'antenna in occhi, poi il coso del... anche altri pulsanti per accendere il condizionatore, che non attendo mia madre di vecchia. È tutta un po' particolare questa casa, capito? Vabbè, come ha detto Massimiliano, linea di Massimo già va bene, non c'è problema. Vai Massimiliano, stai scendo una canonata 9:20 con picchi positivi, radio super 5. Adesso sono staccato, No, sto dicendo le prese, sto parlando della casa. Vai tutto staccato, sono il 550 agganciato. Ciao Massimiliano, stavo dicendo, tu già fai bene così, radio ottima, perfetta, segnale quasi 9:20. 9:15 sì, va bene, con i picchi positivi, è importante mutarsi 9:10, modulateci 9:15, 9:18, va bene, c'ho i bei picchi di modulazione. poi ce l'ho trovato in camera di Gaia, ce l'ho anche qua, però non c'ho, diciamo, lo sport, ma quindi non me la posso abbagliare. Ma ci mi l'avevo tolto perché cioè, pagavo ogni due mesi quasi 60 euro e praticamente quando hanno iniziato il Covid il calcio si era bloccato, ho detto ma io glieli pagavo, poi non vedo nulla, capito? Perché davano qualche partita di quelle straniere che non me ne fottia nulla, il calcio non ce n'era. Quindi ho fatto la difetta, ho fatto l'errore perché dovevo sospenderla, però non si poteva sospendere, mi hanno detto invece non era riuscito. E quindi adesso per riallacciare devo ripagare praticamente tutto la capo, ma diritto no, non me la fotte di notte. E c'è l'opzione di Laria che quando è a casa collega il telefonino, capito? Lei c'ha un sacco di giga, quindi no, non è un problema. Guardiamo, ma ti ripeto, guardo solo quella della Juventus, cioè poi gli altri Coppa Italia le danno sulla Rai, la Champion ne danno una di ognuna, delle italiane le danno su Canale 5, quindi no, non me ne frega niente. Adesso mi dai a casa, ma tanto poco, non devo andare sulla parte, Mario tanto non ci sale, adesso la guardo a casa sua, lui ce l'ha Sky, capito? C'ha tutto. Ma è già attacco io il telefonino, non c'è problema, ce la guardiamo, così facciamo, capito? Tutto qua, vabbè, puoi guardare anche tu, mi sul telefonino, ma ce ne vai 40 giga, tanto vai, 50 giga. No, oggi 60, però non so come devo entrare a guardarla, chiediglielo a Ilaria, ma dove devo entrare per guardarmela, anche io poi la posso collegare al televisore. Capito, ma tramite il wifi la posso collegare io senza cavo. Molti lo mettono col Chromecast, come ero io, capito? Massimiliano mi ha detto che Ilaria c'ha il cavetto HDMI, una cosa del genere, che lo collega al suo, alla porta USB del telefono e alla porta USB dello Smart TV, però io c'ho lo Smart TV, lo Smart TV, entri dove c'è scritto internet nello Smart TV, digiti il codice che c'ha Ilaria e automaticamente lo schermo del telefonino te lo passa al televisore grande, capito? Sì, ma questo codice si mette a guardare la partita, giusto? No, la tua password devi digitare, il codice è la password del telefonino, di internet, o non so se ce l'hai, tu l'aria ce l'ha, la digita, la riporta sul telefono, sul televisore, no? Perché tu, io, quando schiaccio praticamente c'è tutte le icone come internet, il monitor mio, lo Smart TV, c'è scritto internet, vado lì su internet e ti dice digitare una volta che c'è il cavetto agganciato, però, capito? Oppure il sistema wifi devi avere, io non ce l'ho il sistema wifi perché anche il computer è andato in affanculo, di fatto è dovuto, non me l'ha fatto un babbo in TV, già via tutto, quindi. E quindi attacca questo cavetto che è un metro e mezzo così, digita la password e gli appare, anziché lo può guardare anche nel telefonino, ok, lo puoi guardare, non lo annulla e lo porta, il video lo porta sul telefono, sul televisore grande. Sì, allora quello l'ho capito, quello qua l'ho capito, io lo posso fare anche la mia, la Smart TV e tutto il bimbumba, tutti i figossi, ce li ho tutti quelli televisori, sono tutti Smart TV. Però quello che non ho capito, lui entra su Google e scrive partita Juve bimbumba e lo appare così direttamente a guardarla, non mi pare. Ma non è che la guarda in streaming, no? In streaming ti ha diritto, però per vederla, anziché vederla fanculo già va giù oggi, al telefono, la guardiamo il monitor del telefono, lo portiamo sul televisore, capito? Sempre così facciamo. Io c'avevo 9 TV, c'avevo. Ho capito, va. Sì, adesso ho capito come fare, va. Vabbè, comunque, dai, vediamo un pochettino se riesco, tanto fra un po' inizia. Sto dicendo Ilaria che lo puoi fare anche con, se c'hai appunto un buon telefono, si può fare anche, lui lo fa, il mio ad esempio non lo fa, nonostante io ci abbia 10 giga, ma non lo fa perché è un telefono di merda, il suo è quello buono, è come il tuo mio, uguale al tuo, ma lo inserendo il coso, il sistema tipo Bluetooth, capito? Io ci avevo un tempo fa, lo facevo con 9 TV, pagavo il ticket e me lo trasmettevo sul Gromecast. Ho capito. No, ma che si può fare? Ha fatto anche Luca l'altra volta. Praticamente dalla cosa del... Se vai a guardartela nel telefonino, anche che guardare al telefonino, agganci il cavetto e te lo guardi sul televisore grande. Oppure se c'è il sistema wifi sul telefono, o c'è un altro sistema, adesso non mi ricordo. No, a me non me ne fotte, non devo solo guru. Non mi piace il computer, non mi piace nulla, ma io gioco di sì. Stracco baratto, staccato tutto, manco computer c'ho più, radio, computer, voglio più nulla, ma non da me. La 27 mi piace buco. E quindi lo puoi guardare anche così, Massimiliano, capito? No, vabbè, io ho il sistema wifi, capito? Io quando devo guardare qualcosa dal cellulare alla televisione, mi appare proprio lo schermo della televisione, clicco lì su e me lo trasferisce, diciamo, dal cellulare alla televisione, capito? La pay app. Va bene. Allora, facciamo riprendere Antonio, io vi faccio un altro po' di passaggi e poi me ne sono giù, Vai, tu. Io ci avevo alla Fedolce, quando abitavo a casa di babbo, dalla carta pagavo il ticket al mese col Gromecast. Me lo guardavo sia dal cellulare sia dal... me lo trasmettevo in televisione. Funzionava bene, una cannonata era. Mi pare che pagavo roba di 29 euro, qualcosa del genere, al mese. Poi mi ero scocciato che ho detto 29 euro, ha già fatto i conti, feci una pizza, feci da magna, fatta asciutta, feci nei baffi, un po' di roba già ci usciva, quindi ho detto, meglio di no, dai. No, ma hai fatto bene, tu alla fine per guardare una partita la settimana non vale la pena, a meno che non c'hai il pacchetto completo come ce l'avevo io, c'avevo sport, TV, documentari, tutto completo, però pagavo circa 59 euro mi sembra che era al mese, capito? Non è che mi pesassero più di tanto, però alla fine quando ho tolto il calcio non ne ho fatto più, ho fatto la disetta e basta. Del calcio, ecco, però non del calcio. Gli altri ce li ho, c'ho Netflix, MTV, ce li ho tutte quelle, però solo film, documentari, eccetera, capito? Sport non ne ho. Sì, Massimiliano, è pronto anche qua, adesso un altro passaggio, poi chiudo anche io e mi trasferisco in sala a pranzo e a cena, va? Così poi ci guardiamo questa partita, se spero che sia una bella partita, vinca il migliore, naturalmente l'Inter sarà carica a mille perché gioca in casa, e poi Conte anti-Juventino è diventato, non si ricorda che la Juve l'ha fatto grande, che la paga di Bue Libidi, Andore Vido a allenare in Serie A, però non se lo ricorda, vabbè, è diventato anti-Juventino, e quindi Massimiliano. Adesso sta portando l'Inter, secondo lui la vuole portare dove è arrivata la Juve, ma non ci riuscirà mai. Io sono di questo parere. Vai, ci sentiamo allora, ragazzi. Vi auguro una buona cena. Ciao Antonio, ciao Claudio e tutti quelli che stanno ascoltando. Quindi tutto a posto qua, così è Ocla. Non me lo dirai a motozappa comunque. Dai, ci sentiamo, ciao di nuovo, buona cena a tutti e chiudo, ascolto il Fiumarino e non riprendo più, ciao. Vai Antonio. Ehi Kappa, dai, ci risentiamo, oh Massimiliano, alle prossimine, ciao, avanti qua. Ehi Massimiliano, tutto regolare, tutto Kappa di Rosmetro, tranquillo, sereno, 9 più 20 con picchi positivi, alla grande, radio super 5. Perfetto, non tocca se quello è... Ti sto ringraziando quello che devi riferire. È veramente a posto adesso, veramente una grandissima radio. Ciao Massimiliano, un abbraccio, ci aggiorniamo dopo. Sì, passo in QRT e vado a toccare io che ho fame. Ciao Antonio, sei coincidi a dopo, ok? Ok, grazie, ce la sentiamo. Ma dai, se non mi trovo prima già ci sono, se no trovo. Io va bene, dai, io già entro, lascio, abbasso il volume qua, non spengo mai niente, spengo tutto quando, soprattutto queste radio, i vintage sono tutti spenti, queste le spengo prima di coricarmi, capito? Sono appesi da sciamani, in modo che quando vado a trasmettere sono sempre pronte. Dai, ci aggiorniamo dopo, tu, ciao. Ciao, ciao, Clara, già ci sono, se non mi darò un bim. Ok, lascio acceso, se via, ok. Io ci aiuto con un fluccio, dai, ciao ciao. Hola. Benivè. Claudio Benivella.